Buonasera a tutte e a tutti. L'appuntamento di stasera del ciclo sulla modernità, come sapete, è un appuntamento di particolare rilievo perché affronta un nodo diciamo centrale della modernità, il rapporto tra modernità e lavoro, e io qui mi limito a dare un saluto di benvenuto a Susanna Camusso, perché è una delle poche donne leader del nostro paese. Come sapete, è inutile che vi dica qual è il suo curriculum di dirigente sindacale, attualmente segretaria confederale della CGIL, è entrata nella CGIL nel 75, si occupa delle politiche delle 150 ore del diritto allo studio per la FLM milanese. Nel 1980 entra nella segreteria FIOM di Milano, è inutile che vi dica cosa ha rappresentato per la storia del movimento operaio la FIOM milanese, e poi naturalmente nella FIOM della Lombardia dal 1993 al 97 nella segreteria nazionale della FIOM con la responsabilità del settore auto e poi della siderurgia. Nel dicembre del 97 viene eletta segretaria generale della Federazione Lavoratori Agroindustria FLAI Lombardia, dal 2001 segretaria generale della CGIL Lombardia, poi segretaria confederale, ma soprattutto, e questo per donne qui presenti, sapete benissimo che ha fondato il movimento Usciamo dal Silenzio in difesa della libertà femminile, anche a testimonianza del fatto che le tematiche del lavoro oggi sono tematiche non disgiungibili dalle tematiche delle rivendicazioni dei diritti in senso più ampio e della costituzione di nuove forme di cittadinanza sociale, cittadinanza culturale, cittadinanza di genere, attenzione alla qualità della vita, alla qualità degli spazi. Molti dei conflitti del nostro mondo non sono soltanto conflitti per il posto di lavoro, per il salario, che sono temi crucialissimi ancora, ma anche lotte per gli spazi, per, come dire, spazi degni di essere vissuti. E quindi è un modo di intendere il lavoro che allarga gli orizzonti anche tradizionali del movimento operaio. In questo senso il mio saluto è un saluto non formale, quindi voi sapete che il discussant stasera è il professor Enrico Pugliese, che è espertissimo dei temi del lavoro, quindi la parola a Susanna Camusso. Io comincio dallo scusarmi, in particolare col discussant, ma con tutti, perché nonostante il lungo preavviso che mi era stato dato, noi eravamo in stagione congressuale, quindi eravamo vagamente travolti dalle attività, e non possiamo dire che questi giorni siano molto meglio visto quello che si sta preannunciando. Siccome ho visto che è stata distribuita la scaletta, premetto che la frase di Tremonti aveva un puro senso provocatorio, che non è, come dire, un guru di riferimento, ma mi ha colpito scorrendo delle cose questa frase, perché mi ricordava tanto la frase che ha molto usato e poi pubblicato sul mercatismo, e cioè una modalità di fare affermazioni per poi praticare esattamente ciò che si condanna nell'affermazione. E quindi il senso era indicare, come dire, un'affermazione del tutto condivisibile e una pratica invece, quella del suo governo e del suo ministero, che in realtà utilizza esattamente la crisi per subire nel modo più passivo possibile le trasformazioni, meglio dire il peggioramento del lavoro come strategia politica. Quindi quello era il senso, era mettere un punto per prendere una distanza e poi invece provare a ragionare sul fatto che la modernità è stata variamente definita, da un certo punto in poi modernità e globalizzazione sono due parole che funzionano in qualche modo insieme. E se il punto di partenza è il lavoro, come lo si trova nelle due possibili strategie di definizione? E ho utilizzato quelle riassunte di Giddens perché mi offrivano due cose su cui poi ragionare. Giddens definisce le quattro dimensioni delle istituzioni della modernità come capitalismo, industrialismo, sorveglianza, potere militare, tralasciando le ultime due che ci porterebbero a tutt'altro ragionamento. Capitalismo e industrialismo sono le due cose che fanno poi capo ovviamente immediatamente al lavoro, e definisce le quattro dimensioni della globalizzazione dicendo economia capitalista, sistema Stato nazionale, l'ordinamento militare mondiale, la divisione internazionale del lavoro, e quindi riporta nel sistema di definizione di nuovo due parole che incrociano quelle precedenti, perché capitalismo ed economia capitalista sono ovviamente rapidamente riconducibili, e ciò che prima industrialismo diventa divisione internazionale del lavoro. Perché nell'abitudine il lavoro moderno o la modernità rispetto al lavoro viene collegata alla rivoluzione industriale, all'idea del lavoro industriale, usato in qualche modo nel linguaggio comune come un sinonimo. Se si parte dal lavoro è un po' più complicato affrontarla così, perché il lavoro non nasce con la rivoluzione industriale, anche se poi qualche ragionamento bisogna farlo, il lavoro industriale è quello che permette una diversa strutturazione dell'organizzazione del lavoro, anche dell'organizzazione di rappresentanza del lavoro, ma una diversa strutturazione nel senso che il lavoro c'è prima, ne ha tante facce, e anche l'organizzazione del lavoro è precedente all'industria. Però è indubbio che se si ragiona a partire da lavoro e industria, si ragiona di un momento in cui il lavoro è organizzato, parcellizzato, diviso e suddiviso, in cui il termine regolazione assume un altro significato. Faccio un esempio per farmi capire. Se pigliamo a riferimento i contratti nazionali di lavoro, non quelli degli ultimi giorni ma quelli che stanno più o meno all'alba, mentre i contratti di lavoro industriali, delle categorie industriali, hanno tutti una definizione dell'orario di lavoro che lo quantifica, poi a un certo punto si arriva alle 40 ore ma comunque lo quantifica, il contratto dei quello che adesso chiamiamo degli operai agricoli, ma che ai tempi era il contratto dei braccianti, diceva dall'alba al tramonto. E questa dizione è stata superata qualche anno fa, non qualche decennio fa. Quindi questo dà immediatamente un'idea dell'organizzazione del lavoro e di come consideri il lavoro e del rapporto con ciò che c'è intorno a te. In un caso l'alba e il tramonto sono l'indicazione della possibilità di lavorare la terra, oltre che di un'ampia gamma di sfruttamento, la quantificazione temporale indica un'immediata, come dire, dipendenza dal ciclo come è organizzato e quindi in qualche modo dalle macchine. Quando si parla di regolazione del lavoro e si pensa al lavoro dell'industria, ovviamente per me arriva come diretta conseguenza al fatto che ce n'è anche la contrattazione. Anche questa però è una riduzione di ciò che c'era sull'altro lavoro, perché anche il resto del lavoro aveva la contrattazione, anche se le modalità sono molto diverse. Però non sarebbe ingiusto dire che la contrattazione è connessa ai cicli regolati e alla suddivisione del lavoro. Allora, il lavoro come soggetto collettivo c'è nel lavoro moderno o il lavoro come soggetto collettivo c'è anche prima? Prima domanda che da un punto di vista di un sindacalista ovviamente ci si propone. Il lavoro organizzato sindacalmente o comunque la rappresentazione di soggetto collettivo c'è anche prima, ma la rappresentazione, il tratto della rappresentazione cambia. Il lavoro industriale porta con sé la rappresentanza e le forme di definizione della rappresentanza. Le leghe bracciantili non sono luoghi, sono luoghi di rappresentanza collettiva, non di definizione della rappresentanza. Sono antiche, ma sono quelle che noi oggi in qualche modo chiamiamo luoghi di popolo, in cui si va in quanto si è lavoratori braccianti, non in quanto si è rappresentanti di altri lavoratori. Il lavoro industriale porta alla rappresentanza, nelle forme, anche qui evolvono variamente, ma hanno tutte forme di rappresentanza. Io quello che con lo statuto dei lavoratori diventerà rappresentanza sindacale, ma che prima era il commissario interno, che prima era nel linguaggio comune, il delegato e così via, sono sempre rappresentanti di qualcun altro. Il sindacato lì è eletto come la somma dei rappresentanti, mentre nel lavoro agricolo e nel lavoro bracciantile i soggetti sono tutti insieme collettivamente. Se proviamo a leggere allora con l'oggi, questo dice anche per esempio della natura differente delle camere del lavoro, che sono nel nord l'evoluzione delle camere del lavoro che raggruppavano le organizzazioni di mestiere, che poi si trasformano nei grandi sindacati industriali, sono nel sud luoghi di riunione del paese, dell'intera comunità, sono le camere del lavoro del mezzogiorno luogo di emancipazione, luogo dove si impara a leggere e a scrivere, luogo dove si trova il giornale, luogo dove si accede a ciò che la condizione contadina non ti permette di avere dal punto di vista dei diritti, non lo sono invece nel nord. L'unico tratto in fondo comune, se si pensano alla prima industrializzazione tessile di grandi città del nord, sono i ragazzi, sono i fanciulli che ci sono sia nel lavoro contadino sia nei garzoni o nelle sartine o nelle consegnatrici del lavoro delle grandi leghe tessili del nord. Comunque c'è un'immediata differenza del lavoro rappresentato e questa differenza è per me importante sottolinearla, perché è una delle grandi domande dell'oggi, perché noi oggi siamo di fronte a una nuova straordinaria stagione di trasformazione. Se a cavallo del Novecento poi ci sono le guerre e quindi bisogna riprendere il filo dopo la seconda guerra, il sindacato è in grado di capire che dalla sua origine fondamentalmente contadina e bracciantile deve accogliere come la nuova forma di organizzazione il sindacato industriale. Oggi il tema è se il sindacato industriale è in grado di capire che deve accogliere nuovi sindacati che rappresentano nuove forme di lavoro e che sono, come dire, l'intreccio sul futuro. Molto spesso si è detto che il lavoro industriale sostituisce il lavoro e che quindi c'è solo il sindacato industriale come riferimento. In realtà non è vero. Noi siamo tuttora un'economia dentro cui convivono il primario e il secondario e c'è questo grande tema del terziario. Quindi l'accogliere non è il cancellare se stessi, esattamente come il lavoro agricolo non si è cancellato ma si è trasformato e ha tuttora forme di rappresentanza importanti. Il problema è questo, è il cambiamento di cui si è di fronte e che pone delle domande, perché i lavoratori soggetto collettivo della stagione industriale sono contemporaneamente i lavoratori che pensano a definire un proprio status e a immaginare per chi ci sarà dopo di loro uno status migliore. La grande trasformazione del lavoro industriale contemporaneamente è l'invenzione della mobilità sociale, come la chiameremmo oggi, che è fatta di due percorsi che si intrecciano. È l'aspettativa che hai sui tuoi figli, sulla generazione che verrà dopo di te, a cui proponi un avvenire diverso, ma è fatta anche della coscienza di sé e del miglioramento di se stessi. Il essere soggetto collettivo nel lavoro ovviamente è essere un soggetto che pensa anche alla sua, allora si sarebbe detto, emancipazione. poi qui potremmo aprire un grande dibattito tra emancipazione e liberazione, ma forse non è il caso. E quindi il lavoro industriale organizzato nelle modalità diverse, così come il lavoro bracciantile organizzato, si misura col tema del conoscere, del senso della conoscenza e dell'istruzione. E legge l'istruzione, anche spesso se spesso non gli è consentito averla, come fattore di emancipazione e di coscienza di sé. E non a caso è attraverso la far accedere agli studi i figli che vede la possibilità della mobilità. Questa è un'altra delle grandi rotture che sono intervenute. Oggi dire che si studia non è di per sé un fattore di emancipazione e di miglior condizione rispetto al passato. Terzo ordine di ragionamento, il potere. Il lavoro industriale, che è all'inizio una grande galera, compreso tutte le cose che adesso appaiono così lontane e contemporaneamente così vicine, le forme di schiavitù, il lavoro minorile e così via, però è contemporaneamente luogo di potere. Perché quando tu impari la forza che c'ha il tuo lavoro, sei anche in grado di contrattare il tuo lavoro, sei anche in grado di determinare conoscenza dei processi in cui sei. Un punto apicale dell'organizzazione del lavoro è il momento in cui i lavoratori e il sindacato sono in grado di progettare una modalità diversa di organizzare il lavoro. Lo scontro sul fordismo è questo. Il rifiuto della totale parcializzazione è l'idea di ricomporre il lavoro diversamente. E potere anche perché esercita il conflitto. Sento intorno a me molta gente spiegare che la grande modernità sarebbe il superamento del conflitto e la cooperazione, o la, non mi ricordo più il termine che usa il ministro. La complicità. Ti riferivi a quello? Sì, mi riferivo a quello. O la complicità. No, lo sento dire anche da miei colleghi di altre organizzazioni, che il conflitto sarebbe sintomo dell'arretramento, che la modernità invece è la cooperazione, la conciliazione, tutte queste cose, tutte co. Esattamente come co è anche il conflitto, però. Io credo che invece il conflitto sia stato uno degli strumenti della modernità. Perché il conflitto a qualunque livello lo eserciti, da quello relazionale tra soggetti singoli a quello relazionale collettivo, a quello per l'affermazione di una mediazione diversa tra interessi che sono differenti, o a quello finalizzato a esercitare un proprio potere rispetto al potere altrui, sono tutti motori di trasformazione e di cambiamento. Ed esattamente per questa ragione sono straordinariamente moderni. Non c'è una modernità che abolisce il conflitto. Perché l'abolizione del conflitto determina il pensiero unico. Siccome nonostante poi non bisogna mai dare un senso di per sé positivo alle parole, ma per me comunque modernità è in sé un senso anche positivo di indicazione del cambiamento e del progresso, se c'è il pensiero unico siamo comunque all'arretramento. Questa è una stagione di pensiero unico. E questo è uno dei problemi che noi abbiamo. Tutto questo porta però con sé, per non a caso avevo all'inizio usato le quattro dimensioni, al fatto che poi la storia che io ho raccontato è una storia nazionale, che non è detto che sia diversa da altre storie, ma una storia in cui quel conflitto e quell'equilibrio di potere si gioca dentro i confini nazionali. Ovviamente il tema della divisione internazionale del lavoro entra ben prima che non solo dal punto di vista teorico, ma dal punto di vista delle conseguenze materiali, entra ben prima che non nell'epoca recentissima, però è indubbio che la globalizzazione porta con sé una nuova lettura della divisione internazionale del lavoro e soprattutto una nuova lettura della diseguaglianza. Perché questo è uno dei grandi dilemmi. Noi siamo di fronte al fatto che rispetto al tema del lavoro, rispetto al tema dell'uguaglianza, la dimensione nazionale è probabilmente oggi una dimensione insufficiente ad affrontare il problema. è che quando con tanta sicurezza si dice c'è una crisi del sindacato, tema sicuramente vero, e c'è una crisi del potere dei lavoratori e della rappresentazione del lavoro, della comunicazione sul lavoro, si dicono delle cose che in parte non sono risolvibili nella dimensione nazionale. Una parte sì, perché se si decidesse che non si rappresenta un paese che non c'è, ma si rappresentasse il paese reale, sul piano della comunicazione si farebbero molti passi avanti, per esempio senza bisogno di scomodare il globo. Però alcune cose sono indubbiamente temi che hanno assunto la dimensione cosiddetta globale. E questo porta con sé però un obbligo per chi parte dal lavoro a ragionare sul fatto che quella dimensione globale è stato un acceleratore di diseguaglianza. E che se è vero che si può dire che la globalizzazione ha anche ridotto delle distanze e ha anche portato, come dire, a minor povertà, è contemporaneamente vero che comunque ha accelerato le diseguaglianze. E la più grande diseguaglianza che ha accelerato è quella del lavoro e del suo riconoscimento. In tutti i significati della parola riconoscimento, dal salario all'orario, al rispetto per il medesimo, ai diritti per il lavoro stesso, al rapporto che c'è tra il valore del lavoro, il valore della rendita, il valore della finanza e all'idea che di per sé il lavoro dovrebbe essere un promotore di riconoscimento, di status, di visibilità, e invece il fatto che nell'allargamento delle diseguaglianze tutto ciò non succede, introducendo due cose che nei termini precedenti non c'erano, e cioè che da un lato la costruzione delle diseguaglianze va ovviamente insieme al tema della diseguaglianza e della divisione internazionale del lavoro, ma secondo me va anche insieme al fatto che il liberalismo porta con sé un pensiero unico, che è quello dell'individualismo. Le due cose sono insieme, non si distinguono mai, e ovviamente l'individualismo e l'individualizzazione, quindi, dei problemi e delle soluzioni accentua la diseguaglianza perché riduce la forza. E il secondo aspetto è che la globalizzazione rende evidente anche in paesi che non lo conoscevano come il nostro che il lavoro non è di per sé risolutivo del tema della povertà, perché esiste e si sta diffondendo un lavoro povero, che non è solo il lavoro precario, perché sennò si sbaglia l'angolo. Il lavoro precario è una vasta forma di lavoro povero, ma c'è del lavoro povero che non è precario. Quindi si è, costruita una dimensione del lavoro povero. E questa è una domanda per l'Europa, perché se c'è una differenza tra l'Europa e il resto del mondo, che anche nella globalizzazione emerge, è che l'Europa affronta il tema del lavoro moderno e dell'industrializzazione inventando il welfare. E inventando un'idea che c'è uno Stato sociale che parte dalla base del lavoro ma non si ferma al lavoro, ed è il primo punto in cui si ricongiungono delle cose che per noi ricongiungerà lo Statuto dei lavoratori, per esempio, che è il fatto che c'è un diritto dei lavoratori che poi si coniuga con un diritto sociale, con un diritto di cittadinanza, e che è, per banalizzarla ma neanche tanto, lo slogan degli anni 70 sulla democrazia che entrava nei luoghi di lavoro e non poteva fermarsi alle porte dei luoghi di lavoro, ma nello stesso tempo è l'affermazione che il lavoro è una parte della cittadinanza e che i diritti non si fermano semplicemente alla condizione del lavoro. E quindi Stato sociale inteso per le sue grandi caratteristiche, istruzione, sanità e previdenza, per indicare i tre grandi filoni, sono la risposta europea a che cosa vuol dire diritto del lavoro e riconoscimento del valore del lavoro. Oggi questa risposta è totalmente in crisi, e anche questa è una domanda che c'è, esattamente come per il lavoro, se la dimensione Stato-Nazione ti permette di affrontare e di rispondere a quel tema, oppure se facciamo le manovre da Tremonti, come ci vengono raccontate. Divisione del lavoro ovviamente ha avuto delle caratteristiche che hanno guardato anche a com'era la qualità del lavoro. Qui richiamo un tema che ha molto attraversato la discussione degli anni precedenti e che è scomparso, ma che è il tema che appunto poi parla della capacità del lavoro industriale di accogliere le sue trasformazioni, e cioè il giudizio che si dà del fordismo e delle sue trasformazioni. Perché il fordismo è emblematico del lavoro industriale, della sua strutturazione. A un certo punto, per dire che si superava il lavoro manuale e il lavoro industriale, tutti sono scatenati a parlare del post-fordismo, e in qualche modo nel linguaggio comune è dato per scontato che il lavoro fordista non c'è più. Il lavoro fordista è la prevalenza del lavoro esistente tuttora, nel senso che il fordismo è uscito dall'industria e ha permeato una serie di altri mondi, ma la filosofia fondamentale, che è quella della parcellizzazione, della semplificazione, della scomposizione, è tuttora la filosofia prevalente nell'organizzazione del lavoro. E il toyotismo, di cui adesso qualcuno si vergogna a parlare dopo le recenti vicende della Toyota, ma che è stata, come dire, venduta come la modernizzazione appunto del fordismo, in realtà ha introiettato in sé alcuni elementi, la cosiddetta qualità totale, il miglioramento continuo e così via, ma non ha cambiato la natura fondamentale, cioè la parcellizzazione e la non esistenza di un ciclo letto come ciclo complessivo intorno al quale tu esercitavi il tuo potere di critica o di cambiamento. Comunque tu avevi il miglioramento continuo, come ce la spiegano i giapponesi, sulla tua singola postazione. Quindi in realtà noi non siamo di fronte a un nuovo modello organizzativo che ha sostituito il modello fordista nell'organizzazione del lavoro. E i salti tecnologici hanno sottratto magari parte del lavoro, ma non hanno cambiato la modalità fondamentale di organizzazione del lavoro. Le più grandi trasformazioni e le crisi di specializzazione hanno portato con sé la sostituzione di una parte del lavoro umano col lavoro delle macchine, e hanno poi determinato la cosiddetta introduzione delle nuove tecnologie, dell'high tech, dell'informatica, chiamiamola come vogliamo, che ha sicuramente virgolette modernizzato i cicli e cambiato la qualità materiale del lavoro delle singole persone, non la filosofia che lo organizza, e ha determinato un fenomeno moderno in più, che è la totale invasività attraverso gli strumenti del lavoro nella vita delle persone. E un tratto della, come dire, mentre per lungo tempo si è detto che la tecnologia risolveva la fatica, cosa in parte è anche avvenuta. Il lavoro siderurgico che abbiamo conosciuto, che metteva i lavoratori di fronte alla colata, non ha nulla a che fare con l'attuale ciclo siderurgico in cui la colata non viene neanche vista perché la guardi da un computer. Quindi è indubbio che lì c'è un cambiamento di qualità positivo, perché non c'è la fatica, non c'è l'esposizione al calore, eccetera eccetera, ma contemporaneamente ogni computer, palmare, telefono informatizzato e così via è la certezza dell'invasibilità della propria vita, perché il lavoro non si stacca mai da te. E per esempio questa è una delle misure della nuova discriminazione nei confronti del lavoro femminile, perché il non tempo è pesantemente vissuto dalle donne in modo assolutamente diverso da quello vissuto dagli uomini, anche perché nelle tante responsabilità che si sono assunte collettivamente, una collettivamente non si è assunta, l'idea che la famiglia non sia solo un problema delle donne. Ma però il fordismo aveva in sé una cosa: il fordismo cancella la schiavitù, ne propone una nuova, una parcellizzazione e così via, ma cancella l'idea della riduzione a schiavitù. È lavoro organizzato di cui le caratteristiche sono note, in cui, come dire, i termini sono espliciti. Poi c'è la rincorsa, la sottrazione, il lavoro informale, la contrattazione, ma i termini sono dati. Adesso ricompare un lavoro in cui i termini non sono dati. E ricompare, anche qui, è sufficiente lo Stato-Nazione? Probabilmente no, però il nostro Stato ha delle belle peculiarità, perché ricompare dentro due fenomeni. Uno è l'estensione della criminalità organizzata attraverso il lavoro, e quindi il caporalato, e quindi eccetera eccetera, e l'altro attraverso il fatto che ci può essere di nuovo un lavoro che non è parte del tuo tempo, ma che è la totalità del tuo tempo, e l'essere a disposizione. perché le storie delle campagne e del lavoro edile, che ormai si può raccontare serenamente, di questo parlano. E parlano della totale separazione tra il lavoro come cittadinanza o il lavoro come schiavitù. Perché se io sono costretto al caporale, senza luogo in cui abitare, senza diritto alla mensa, senza diritto a una vita propria, il circuito positivo di congiunzione tra il lavoro e i diritti del lavoro e i diritti di cittadinanza è un circuito che si interrompe, c'è una parte del lavoro che non ha più diritto di cittadinanza. Vengo all'ultima cosa e a una considerazione finale, il che vuol dire che se tutti questi fenomeni sono contemporaneamente, la vera sconfitta nella modernità è il fatto che il lavoro torna a essere nel pensiero unico considerato puramente una merce e si separa la prestazione lavorativa dalla persona che presta il lavoro, e quando c'è la volontà di ricongiungerla, siccome prevale l'individualismo come pensiero dominante, il singolo deve provare a ricomporlo e si nega la rappresentanza collettiva, e qui c'è una delle grandi crisi della ricostruzione della. E allora tutto ciò pone l'ultima domanda, oltre a quelle che ho fatto sulla dimensione nazionale, la dimensione collettiva, e l'ultima domanda è: la modernità, l'industria, la trasformazione del lavoro industriale, le nuove forme di lavoro, le abbiamo sempre lette e interpretate attraverso l'idea che il lavoro dava identità alle persone e che questa identità era quella che metteva in moto anche la rappresentanza collettiva, il senso di sé e quindi i processi di trasformazione e di rivendicazione. Oggi il lavoro dà identità alle persone, perché questa è credo una cosa che è stata ampiamente negata. C'è tutta una stagione del pensiero che nega che il lavoro sia la componente fondamentale dell'identità delle persone, secondo me operando una sottrazione e un'obnubilazione. E quindi molti hanno risposto che, non essendo più l'identità lì, era giusta la risposta individuale, devono essere altre le forme. Poi c'è tutta la filosofia della flessibilità, della precarietà e così via. Nessuno ha però detto se senso e identità sono la stessa cosa, perché le giovani generazioni, le giovani donne e i giovani uomini ci hanno detto che il senso del lavoro è molto profondo, perché se cambia la qualità degli studi e c'è l'affermazione di una propria progettualità che poi viene negata dalla precarietà e dall'impossibilità di ricongiungere questi due elementi, però il progetto parte dal lavoro, vuol dire che il senso di sé passa dal lavoro. E se c'è una rivoluzione che si è nuovamente compiuta, è quella che le donne nel mercato del lavoro non si ritengono salario aggiuntivo della famiglia, ma fanno un progetto di loro presenza nel lavoro. Allora vuol dire che il lavoro dà senso di sé, anche nella differenza e nella diversità di genere. Allora forse il tema dell'identità torna a essere un tema straordinario e torna ad essere una modalità per rispondere al fatto che se la precarietà, oltre a essere precarietà contrattuale, e anche precarietà di senso di sé, precarietà sociale come è stata definita, ha bisogno di una duplice risposta. Una, che bisognerebbe togliere di mezzo molta della legislazione che si è introdotta e ricondurre il valore delle parole al suo senso, e quindi la flessibilità nel momento in cui diventa precarietà è un dato negativo, punto. Poi possiamo ragionare invece delle modalità in cui si organizza il lavoro. Ma l'altra domanda che porta questo tema con sé e se forse il lavoro non vada ridefinito a partire dall'idea che non c'è sottoposto e diviso, ma a partire dal fatto che si è in grado di progettare un proprio modo di essere nel lavoro, perché se non ricomponiamo queste due cose possiamo anche, con questo governo no, ma possiamo anche proporci l'idea di cambiare la legislazione, di tornare a quelle sagge cose che sono il lavoro dipendente, il contratto a tempo indeterminato, la certezza degli ingressi, la contrattazione della flessibilità come valore positivo e non negativo. Possiamo fare tutto questo, ma tutto questo ha insieme una domanda, che tutto questo si esercita se si smette di pensare che è una pura merce, che quindi può essere offerta precariamente o strutturalmente, mentre invece ha un senso di sé, un progetto, un'identità, e quindi come tale non può che ricomporre tutti i diritti insieme. Bene, ringrazio molto Susanna Camusso che ha toccato, come avete ascoltato, tantissimi temi. Prima di dare la parola all'amico Enrico Pugliese, volevo semplicemente sottolineare tre aspetti. Il primo aspetto è quello della progressiva espansione tramite inclusione delle dimensioni lavorative, quando si parte dal lavoro di tipo contadino e bracciantile, si include la nuova dimensione del lavoro industriale, partendo però da un'idea che io trovo molto seria, cioè l'organizzazione del lavoro non nasce con la modernità, ma c'è anche prima, e bisogna cercare di capire in quali forme, in certa misura, si è mantenuta. E poi la seconda fase è quella della inclusione da parte di un lavoro essenzialmente industriale di nuove dimensioni del lavoro. Qui Susanna Camusso ha posto due questioni importanti. Intanto quella della nesso stretto tra la globalizzazione e diseguaglianza. Gli economisti seri, anche americani, che il mio vecchio amico Tremonti, quando era di sinistra, il vecchio amico, evita di citare accuratamente, dicono non è soltanto il fenomeno della diseguaglianza, ma quello della polarizzazione, nel senso che è un meccanismo di finanziarizzazione per cui, per dirla banalmente, i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Quindi non soltanto noi abbiamo la diseguaglianza, ma abbiamo proprio il fenomeno della polarizzazione. E poi ha posto la questione, secondo me, vera, che è quella che poi è la posta in gioco vera, anche culturale, secondo me, quella della permanenza nella organizzazione del lavoro e non nella fenomenologia dei lavori. Come dice l'altro caro amico a Cornero, ci sono i lavori al plurale, d'accordo, ma l'organizzazione del lavoro è fondamentalmente rimasta fordista. Qui naturalmente un problema che si pone, questa dimensione iperfordista del lavoro globale, però ci pone dinanzi ai problemi di una doppia delocalizzazione del lavoro e del capitale. I capitali sono delocalizzati, investiti negli angoli più diversi del mondo, e anche spesso i lavoratori sono delocalizzati, e quindi le nuove tecnologie determinano un effetto di isolamento e quindi anche rendono più difficile quel processo di socializzazione che, per dirla col vecchio appunto storico della classe operaia inglese Thompson, aveva consentito un processo di formazione della classe operaia inglese che era fatta di individui provenienti dalle culture più diverse, dalle storie familiari più diverse, che magari neanche si intendevano perché parlavano dialetti diversi, il gallese, lo scozzese, eccetera, e però poi si unificano piano piano attorno a una coscienza di classe, perché sono dentro un rapporto di lavoro che li socializza e li unifica. Questa difficoltà naturalmente oggi si pone, secondo me, con i fenomeni di delocalizzazione. Trovo importantissima la battuta finale sulla identità, perché questo è veramente il processo di rimozione della identità determina un rimbalzo, un feedback, una retroazione nei termini di una reificazione delle identità che vengono gestite come identità locali contro le identità socializzate. Il leghismo è uno di questi fenomeni, ma anche i fenomeni che accadono da varie parti d'Europa, dall'Olanda ad alcune regioni della stessa Germania, ahimè, bisogna guardare meglio dentro la Germania, regioni dell'Austria, altre regioni della Mitteleuropa, indica che abbiamo tendenze di questo genere. Naturalmente il grande esperto qui è Enrico e appunto gli cedo la parola. Io avrei preferito continuare a sentire Susanna Camus e poi dopo anche Giacomo mi stava interessando, e come dire, parlerei per ore, e quindi non temetemi, tra l'altro mi potete stoppare subito. e gli spunti sono stati tantissimi e, come dire, un po' anche la mia biografia è stata coinvolta, perché in realtà è vero che da 20-30 anni non studio più l'agricoltura e il lavoro agricolo. Credo che l'ultimo mio articolo sul lavoro agricolo è stata la relazione della Società Italiana degli Economisti Agrari nel 1985. Però comunque ogni tanto, sai, mi sento di... Tu sei pugliese, l'agronomo, quindi c'è tutto sommato questa cosa qua, e tra l'altro su questo voglio... Ma alla fine, nonostante sia la cosa che mi interessa di più, perché sulle camere del lavoro, sulle particolari forme di organizzazione, sul livello territoriale dell'organizzazione, diciamo così, sono cresciuto e mi pare che sono tematiche che sono attuali ancora oggi. E avevo preso su questo un mucchio di appunti, ma poi dopo piano piano sono emerse altre cose. Sono perfettamente d'accordo sul discorso dell'identità fatto sia da Susanna Camusso sia da, ora riferita da Giacomo. Qui c'è una... È vero che si stanno formando, noi tutti abbiamo delle identità multiple ovviamente, ma in questa molteplicità di identità si vanno affermando pericolosamente in posti che non immaginavamo, quelle peggiori, quelle localistiche, quelle etniche, e quella fondamentale, che è quella lavorativa, è messa in discussione. Questo è vero, nel senso che quando noi troviamo l'operaio di un'area, di una fabbrica del nord che vota Lega, in realtà c'è proprio questa contraddizione tra l'identità localistica e, scusatemi la parola, l'identità di classe, insomma, questo è un problema. Mentre invece il lavoro come fondante dell'identità all'interno dell'ovvietà di compresenza di identità multiple continua a esistere. La gente ti chiede che lavoro fai, dopo un po' anche su Facebook si vuol sapere dov'è che lavori, perché si cominciano a raccontare i guai, e i guai spesso riguardano il lavoro e cui l'identità ricompare. Questa è la cattiva notizia. La buona notizia, no, questa è una buona notizia, c'è l'altra buona notizia, questo è un dato, cioè non è una buona e cattiva notizia, è un dato il fatto che l'identità lavorativa ricompare, mentre invece è finita, per piacere, quella storia che ci raccontavano, che era finito il lavoro e imperciottanto era finita pure l'identità lavorativa. Guardate l'esempio che si faceva, che trovate su ogni libro postmoderno, che parlava del post-industriale, eccetera, eccetera. Una volta nell'anno solare di 365 giorni il lavoro pigliava tante ore, decine di migliaia di ore. Ora invece molto di meno, e quindi sempre di meno. Queste considerazioni dimenticava il fatto che proprio nel momento in cui noi parlavamo della centralità operaia, proprio nel momento in cui i tempi della fabbrica scandivano i tempi della società, si era ridotto già quasi ad ora. Insomma, noi lavoriamo qualche ora in più di quando si lavorava 50 anni fa, quando ste cretinate non venivano scritte, vi rendete conto? Quindi era finita la centralità del lavoro nella vita della gente, era finita l'identità lavorativa, i libri che si buttavano sull'argomento. Poi, se pensate che un editore di una certa intelligenza ha pubblicato il libro di Rifkin, Rifkin è scemo in generale, ma nel libro La fine del lavoro è scritto che il lavoro, così come lo conosciamo alle dipendenze, in termini numerici è destinato a ridursi pesantemente nei prossimi ventenni, è aumentato del 20%. E non solo nei paesi del terzo mondo. Quindi il ragazzo, così come molti italiani non ragazzi, ma titolari di reddito fisso in qualità di professori universitari, anche di materie economico-lavoristiche, cioè di economia e del lavoro, raccontavano questa cosa, che non stava né in cielo né in terra. Poi il libro di Rifkin, scopre Rifkin, è un ragazzo tutto sommato che ci sa fare, era un libro che raccontava la precarietà, così come lui l'aveva osservato in America. l'unica dimostrazione che finiva il lavoro era basato su questo dato erroneo che lui aveva visto, e in realtà, diciamo, se voi andate a vedere, il lavoro è aumentato perché poi il lavoro è aumentato. Il lavoro è aumentato perché siamo andati progressivamente da una società più industriale a una società più basata sui servizi, e il lavoro delle badanti, signora mia, è molto lunga. E non mi venite a dire che prima quel lavoro lo facevano altro. Certo, ed era un lavoro simile fenomenicamente, solo però che, come diceva Keynes, se io sposassi la mia governante, il reddito nazionale diminuirebbe. Perché? Perché nelle statistiche la badante c'è, la zia, la nuora non c'è, la nuora che assiste, quindi siamo lì. Allora, in realtà il lavoro è molto molto molto aumentato, e l'identità lavorativa, se permettete, c'è la badante. Prima faceva l'insegnante di matematica in Ucraina, ora fa la badante nella famiglia borghese, è piccolo borghese, e certe volte, visto che c'è pensione di invalidità, pensione di vecchiaia, accompagna anche nella famiglia proletaria urbana e non urbana. Questo è lavoro. La badante lavora, fa lavoro mercificato, si può volendo iscrivere alla Filcams, e alcune, quelle più svelte, si iscrivono pure. Quindi, come dire, soggetti sindacali. Poi hanno tante altre identità nella molteplicità delle identità, ma però io a queste identità ci sono affezionato, meno male. Io nel sindacato ci sono cresciuto, diciamo, ho diretto quando ero giovane, 40 anni fa, avendolo creato, l'IRES CGL di Napoli per 5 anni, poi ho lavorato all'IRES nazionale un'altra decina di anni, insomma, perciò tutto sommato, insomma, l'identità, e queste cose però le ho sentite dire pure dentro il sindacato, Questo voglio dire, non è che questa è una cosa che dicono semplicemente nelle facoltà di sociologia un po' free free, sono state dette anche nel sindacato. Allora, quindi, vi ricordate quando qualcuno spiegò, una mia collega illustre studiosa, disse: a Napoli il lavoro, per dire che è disprezzato, si dice è fatica, si chiama fatica. Ecco, a Napoli fatica è l'unico modo in cui si dice: tenga una bella fatica, tenga una fatica brutta. Vai a trovare una fatica, finalmente hai trovato una fatica, quindi hai trovato una fatica, quindi è sinonimo di lavoro. Come dice che i francesi odiano il lavoro perché lo chiamano travail, che come è noto viene da tripolium, che è uno strumento di tortura. Lasciamo correre. Quindi finanche le etimologie venivano utilizzate in maniera irresponsabile da studiosi per dimostrare tesi che non stavano né in cielo né in terra. Ripeto, a Napoli si dice fatica, in Francia si dice travail viene da tripolium, non c'è dubbio su quello. Ecco. Allora, ci sarebbe dovuta essere, però purtroppo questi non mordono più. Gente che dice che è finito il lavoro. Quando noi al manifesto, nell'angolo dell'80, sempre diciamo, parliamo sempre, poi voglio tornare sulla modernità, io non so se l'80 eravamo già nella modernità, insomma suppongo di sì, da un po' di secoli, ma nell'80 facemmo un convegno a Milano che si chiamava Liberarsi dal lavoro o liberare il lavoro. E noi pensavo modestamente che bisognava liberare il lavoro. Il lavoro, si sa, insomma, il lavoro c'è nella società capitalistica, così come c'è il conflitto, e devo dire che ho molto apprezzato la sua dichiarazione della negazione del conflitto come espressione del pensiero unico. E lì è chiaramente di nuovo c'è i problemi. I poveri sociologi, che poi sono delle brave persone, e avevano decretato nella sociologia che si definiva mainstream, quella struttural funzionalista americana, fino a metà degli anni 50, fino a che non è arrivato Dahrendorf, che ha detto che in fondo non c'è niente di male nel conflitto, anzi, però naturalmente il conflitto che fa nella società industriale viene istituzionalizzata attraverso soggetti che si riconoscono, il padrone e il rappresentante degli operai. Quindi proprio, diciamo così, si assumeva che esistevano le classi e che esiste il conflitto di classe. Il libro si chiama Class and Class Conflict in Industrial Society, fu una pietra nello stagno, un libro di una moderazione incredibile, perché riteneva in sostanza che quello che praticamente che riteneva poi quello che è l'assunto del sindacato moderno, di tutti i sindacati moderni, tranne forse i Wobblies, che cioè praticamente il sindacato assume il conflitto e contemporaneamente il preciso lo specifico riconoscimento. Poi sognavamo tutto una società senza i patroni, ma con i patroni si contrattava, c'era la Confagricoltura, c'era la Federbraccianti, facevano il contratto nel reciproco riconoscimento, con tanto odio naturalmente, insomma questo non si può negare, ma comunque intanto esisteva. E allora torno, vabbè, su questo, diciamo così, volevo con questo avviarmi a, ah no, voglio fare pure un altro piccolo chiarimento sul fordismo. Allora, io negli anni 70 ebbe uno strepitoso, vabbè, ci sono molti Gramsci, c'è il Gramsci che abbiamo amato in Italia, soprattutto in Italia meridionale, che per esempio è il Gramsci degli scritti sulla questione del meridionale, è il Gramsci di molte cose che riguardavano. Poi dopo c'è un altro Gramsci che nel International Gramsci Business, che praticamente è stato negli anni 80, diciamo, un grosso business culturale a livello internazionale, c'era un Gramsci che pure è giusto, insomma, era il Gramsci del marxismo non economicista, e c'è del ruolo degli aspetti culturali, dell'egemonia, ma c'era, spesso si prendeva Americanismo e Fordismo, testo popolarissimo. Allora, lì il giudizio di Gramsci sul fordismo, certo l'animale, l'operaio ridotto a gorilla, lo sappiamo benissimo, era in fondo, come dire, un'ammirazione per qualcosa che in un certo qual senso era comunque un elemento progressista. E perché Gramsci lo scriveva pure in contrapposizione, paragonando la moderna società americana alla reazionaria società italiana, che era il fascismo, poteva introdurre tecniche di sfruttamento nell'industria spinte, ma non secondo il modello fordista, perché il modello fordista non riguarda la fabbrica, ma appena si è affermato, ha superato il livello della fabbrica e della produzione e si è realizzato nella società. Il blocco di traffico al Lago Negro sull'autostrada il 14 agosto, che c'è stato tra gli inizi degli anni 70 e la fine degli anni 80, si chiamava fordismo, perché fordismo è il fatto che i tempi della fabbrica scandiscono i tempi della società anche, e quindi due giorni dopo, un giorno e mezzo dopo che aveva chiuso la Fiat, si determinava il blocco di traffico al Lago Negro, che non si determina più alla vigilia di Ferragosto, perché quando chiude la Fiat, insomma, il paese se ne accorge un po' di meno, le strade di grande traffico se ne accorgono un po' di meno. Il fordismo è questo, ma il fordismo è anche, è vero che Ford odiava, era pure un buon nazista, odiava i sindacati, ma è anche vero che poi dove si è concretizzato quello che noi chiamiamo modello fordista, il sindacato c'è stato, e fordismo ha significato taylorismo sicuramente, perché il cuore organizzativo in senso stretto del fordismo era il taylorismo, ma significava stabilità, significava diritti, significava alte paghe, significava il miracolo fordista che introduce un elemento di complicazione nell'analisi marxiana, nell'analisi dei marxisti, perché l'analisi marxiana non lo prevedeva, significa che la forza lavoro è anche consumatrice oltre il livello della mera sussistenza. Poi possiamo dire che possiamo arrampicarci sugli spetti e dire sì, che poi dopo la mera sussistenza diventa un'altra cosa, però sappiamo che gli operai si possono comprare l'automobile, insomma. Allora, ho l'impressione che quello che resta non è più il fordismo, ma che del fordismo restino le sue dimensioni peggiori. Una delle dimensioni peggiori, appunto, sono quelle legate all'organizzazione del lavoro taylorista, sostanzialmente. Quindi in pratica c'è rimasto il peggio ed è stato tagliato progressivamente il meglio del fordismo. Poi il fordismo, voglio dire, era giusto criticarlo a quei tempi. Ora invece, come dire, noi del fordismo abbiamo perso il blocco di traffico al Lago Negro, ma abbiamo perso anche le centinaia di migliaia di occupati nelle grandi industrie che determinavano il blocco di traffico al Lago Negro, e questo è un problema sicuramente. Però io ho parlato troppo, voglio finirla con anche con una domanda e anche esprimendo la mia, io il lavoro lo conosco abbastanza bene, la modernità non so molto bene cosa sia e non è una provocazione, e lo dico anche perché penso subito alla cronologia. C'è Angiolina Arro, come dire, quando andiamo in giro a parlare di immigrazioni, lei ed io parliamo di mondi incompatibili. Lei parla di una cosa che si chiama l'emigrazione nella prima modernità. Nell'antico regime, che è la modernità. Comunque lì si parla di prima modernità. La prima modernità, poi dopo passano millenni, passano molti, molti secoli e arriva per me l'oggi, che nella mia ingenuità è ancora modernità. Quindi questa modernità è sterminata. All'interno di questa modernità, la cui definizione io non so dare, a un certo punto il lavoro si afferma, si afferma il lavoro organizzato, si afferma il lavoro industriale, dopo che sono stati perseguitati e perseguitati violentemente in Inghilterra, i sindacati vengono riconosciuti, e quindi, come dire, il momento, diciamo così, che a un certo punto nella modernità, cioè non all'inizio della modernità, a un certo punto nella modernità acquista un ruolo centrale la classe operaia, vengono riconosciute le sue organizzazioni tra fine 800 fino a che poi al turn of the century, come si dice, a cavallo del secolo, non si può fare a meno di riconoscerlo in nessuna parte del mondo sviluppato, e allora c'è la classe operaia organizzata e le sue organizzazioni come centrale nella vita civile, nella vita politica delle società moderne, e poi dopo la classe operaia organizzata dà luogo per la sua forza al sistema di welfare. Io penso sempre che il sistema di welfare è, come dice Jan Goff, risultato di pressioni dal basso e riforme dall'alto, quindi qualcosa che conquista la classe operaia, e ne sono convinto. Classe operaia, sistema di welfare, e poi arriviamo in Italia, e lì è interessante l'attacco alla Camus, perché è partita dai braccianti, è partita dal fatto che, se voi leggete Storia del sindacalismo italiano di Idomeneo Barbadoro, ma chi se lo ricorda più a Barbadoro, chi si ricorda più la storia del sindacalismo italiano, il primo volume della storia del sindacalismo italiano si chiama La Federterra, cioè il sindacalismo italiano nasce, e c'era una signora che, dati gli usi dell'epoca, non si chiamava manco col suo cognome da signorina, bensì si chiamava col cognome di suo marito, che era Argentina Altobelli, la quale era segretaria nazionale di uno dei più importanti e numerosi sindacati d'Europa, nel senso che, come diceva in un famoso seminario a Portici quando io ero giovane lo storico economico Mori, in realtà la Pirelli, la Fiat avevano decine di addetti quando alla Federterra erano iscritti centinaia di migliaia di persone. Qual è l'implicazione di ciò? L'implicazione di ciò è che nella storia del lavoro e del sindacato e del welfare nel nostro paese, questa matrice agricola e rurale diventa un elemento pesante di condizionamenti, ma anche di stimoli culturali e anche di difese fondamentali, soggetti che altrimenti sarebbero stati debolissimi. E giusto perché il sindacato italiano è bracciandile, quando gli altri sindacati sono già industriali, che si pone un problema di imponibile di manodopera subito. Cioè, una delle prime battaglie sul welfare si fa perché chi ne sente questa necessità sono i lavoratori che lavorano in maniera intermittente. E anche l'elemento di, forse questo non sono d'accordo con la relatrice, perché io do una valenza generalmente più positiva al valore della Camera del Lavoro come organizzazione territoriale anche al nord, perché siccome non si possono organizzare on the workplace neanche i braccianti delle aziende capitalistiche più avanzate, perché c'è un elemento di precarietà legata alla stagionalità agricola, quindi come dire, on the shop floor, se the shop floor c'è, sarebbe la campagna, però cambia ogni poco e quindi da questo punto di vista l'organizzazione territoriale è determinante. Pensate, secondo me l'organizzazione a livello territoriale può essere un elemento sul quale costruire possibilità di aggregazioni anche ora, nella misura in cui c'è questa realtà frammentata del lavoro. Quindi si può recuperare una cosa arcaica anche oggi. E allora io questo volevo dire sostanzialmente, non, diciamo così, potrei parlare ancora per molto tempo, ma mi pare che questa tradizione agricola, certo, poi dopo ci sono stati pure gli effetti perversi del carattere rurale del nostro welfare. Noi abbiamo avuto la Federmutua coltivatori diretti, che però è un effetto del welfare paradox, cioè il paradosso del welfare è che la classe operaia lotta per le cose e altri ceti poi ne godono. In realtà ci sono state, la classe operaia si è modificata e poi praticamente ne hanno beneficiato artigiani e contadini, che soprattutto gli artigiani non ne beneficiano più, quando Sandro Pizzorno scriveva nel 75 i ceti medi del meccanismo del consenso, si riferiva a artigiani che andavano in pensione senza aver lavorato quasi niente ed andavano con l'equivalente di un reddito. Ora ciò è finito, il tassista continua a guidare fino a quando non ci vede più e c'ha il cervello completamente fuso, perché diciamo così anche quelli abbiamo perso, cioè peggiorato nel lavoro, e questo non è il lavoro autonomo di seconda generazione di Bologna e il suo Fumagalli, questo è il lavoro autonomo di prima generazione. Però diciamo il welfare paradox fu che le categorie di lavoratori autonomi godettero per alcuni versi ancor più dei lavoratori dipendenti dei vantaggi di un welfare che era maturato in una società per molti versi agricolo-rurale. E allora questa è la situazione secondo me. Ora sulle cose che ha detto soprattutto in conclusione la Camus sono perfettamente d'accordo. In realtà insomma c'è una situazione in cui c'è un declino della forza sindacale e contemporaneamente un riconoscimento sempre più modesto. Ci sono le condizioni oggettive del declino e però ci sono anche le condizioni politiche e culturali del mancato riconoscimento. Questo governo è particolarmente attivo nel mancato riconoscimento, è particolarmente attivo poi nella persecuzione di un sindacato particolare, però perseguitandone uno in realtà si determina una condizione di mancato riconoscimento a livello sindacale. Ecco, questo era tutto quello che avevo da dire, diciamo almeno le cose più significative, con la mia usuale tendenza alla confusione.